Letture di Radio 24. Anche i topi rimpiangono. Una ricerca dimostra che i ratti sono in grado di imparare dai propri errori. Cos'è il rimpianto? I mammiferi non umani possono provarlo? Etologi e neuroscienziati si domandano da tempo se l'uomo non condivida con gli animali alcune emozioni legate alla capacità di conoscere, contrapposte alle emozioni più semplici, comuni a tutti i mammiferi. Ora David Reddish e Adam Steiner, Università del Minnesota, hanno pubblicato su Nature Neuroscience una ricerca condotta sui ratti che ha dato esiti sorprendenti. Anche questi mammiferi sarebbero capaci di provare rimpianto, uno stato psicologico complesso in grado di influenzare e modificare le decisioni future. La parte difficile è stata separare la delusione dal rimpianto, ha spiegato Reddish. Mentre la prima è un semplice sentimento di insoddisfazione di fronte al vanificarsi di un'aspettativa, il secondo comprende anche la consapevolezza della propria responsabilità nel fallimento. Per isolare questo secondo sentimento, i ricercatori hanno congegnato un percorso battezzato Restaurant Row, giro dei ristoranti, lungo il quale alcuni dispenser erogavano, con tempi di attesa diversi, cibi differenti, alcuni più appetibili, altri meno. Quando un animale, per troppa fretta, saltava un dispenser e scopriva che il successivo offriva una ricompensa meno soddisfacente, si voltava indietro verso il dispenser saltato. Rimpianto per l'occasione perduta? Questa interpretazione sarebbe confermata dall'attività cerebrale registrata nei ratti. Le neuroscienze hanno infatti mostrato che le stesse strutture cerebrali si attivano sia quando si ottiene un certo risultato, sia quando si è persa l'opportunità di raggiungerlo. E nei ratti le stesse aree del cervello si attivavano sia consumando il cibo gradito, sia guardando a quello mancato. Non solo. Imparando dall'errore, gli animali modificavano poi il loro comportamento. A conclusioni simili è raggiunto anche uno studio sui macachi condotto nel 2009 da neurobiologi della Duke University. E non si tratta solo di risultati astrattamente interessanti. Lo studio scientifico del rimpianto potrebbe infatti anche risultare utile dal punto di vista clinico. Se in un essere umano la macchina per prendere decisioni non funziona bene, dice Reddish, dobbiamo conoscerla meglio per capire come aggiustarla. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giulia Villoresi «Così i ratti rimpiangono le occasioni perdute e imparano dagli errori» dal venerdì di Repubblica del 27 giugno. Letture di Radio 24. Dagli amanuensi fino all'era del digitale, il nuovo saggio di Andrea Kerbacher ripercorre le tappe principali della storia del libro. Tra gli elementi che, a partire dal XIX secolo, hanno contribuito nel bene e nel male alle grandi diffusioni dell'industria editoriale, ci sono per Kerbacher la nascita del marketing e dei premi letterari. Non so quando di preciso sia nato il vocabolo marketing. Come tante espressioni prestate al vocabolario italiano dall'inglese dell'economia, mi è sempre parsa una parolaccia, qualcosa che interferisce con le qualità di un manufatto, cercando di obbedire all'imperativo categorico del commercio. Vendere, vendere, ancora vendere. Il campo editoriale non mi pare divergere troppo. Il pubblico vuole gialli? E noi andiamo avanti a rifilargli gialli fino alla fine del mondo. Vuole saggi storici? Eccoci pronti con collane specializzate ad nauseam, dove si approfondisce il problema del naso di Cleopatra come il numero di peli del cane preferito di Hitler. Conseguentemente, se una cosa ha successo, è opportuno non cambiare mai nulla. I nomi delle collane, i caratteri di stampa, le impostazioni grafiche devono rimanere sempre immutati nei secoli. Ogni novità viene vista come una pericolosa minaccia contro l'ordine costituito. Ma più che questa tendenza ad assecondare il gusto corrente, mi ha sempre colpito la totale mancanza di una propositività che esca minimamente dal seminato. Per nostra fortuna, nell'Ottocento delle magnifiche sorti e progressive, il marketing librario è ancora alle prime armi. Ma proprio in quegli anni, soprattutto nelle città, parallelamente allo sviluppo dell'editoria, nascono anche attività promozionali più strutturate, dovute alla vocazione congiunta degli editori e degli autori. Non si tratta del resto di una novità assoluta. Politiche di promozione e vendita dei libri sono sempre esistite, ancora ai tempi dei manoscritti. Tali erano, agli albori della rinascita del mondo occidentale, le famose letture di Dante da parte di Giovanni Boccaccio nella Firenze del Trecento. Un omaggio a un letterato e a un fratello maggiore nelle lettere, certo, ma anche il desiderio di promuovere un libro altrimenti forse troppo faticoso da procurarsi e conoscere. Più tardi, con l'evolversi della produzione, iniziano anche forme di propaganda più o meno sofisticate. Nell'Inghilterra del 600, giusto per citarne uno, un esempio giunge da Nicholas Culpeper, scrittore di opere di divulgazione medica che godono di notevole favore presso la popolazione. A questo successo contribuisce anche la singolare forma di promozione concertata dallo stesso Culpeper con l'editore. Al momento della produzione del libro fa stampare un numero maggiore di frontespizi e utilizza quelli in soprannumero per attaccarli agli scaffali delle librerie o anche in giro sui muri. Una delle più antiche forme di volantinaggio e quasi certamente la prima dedicata ai libri. Si è visto poi che nel Settecento l'intero assetto economico dell'industria del libro inizia a prendere una forma che con molte modifiche ha mantenuto fino a tutto il Novecento. E infatti con il tempo si erano anche intensificate le attenzioni agli aspetti della vendita dei libri, che presentavano problematiche non così dissimili da quelle di oggi. Verso la fine del secolo, le politiche di marketing, ormai variegate e specializzate, vengono completate dalla comparsa di una nuova forma di pubblicità di forza inedita, i premi letterari. Oggi, circondati come siamo da ogni sorta di riconoscimento, l'idea può sembrare banale, ma all'epoca i premi erano riservati a beni materiali come il vino o il formaggio. Se qualcuno avesse avuto l'idea di premiare uno scrittore per una poesia o un romanzo, come se fosse stata una derrata alimentare, probabilmente sarebbe parsa una stravaganza decisamente singolare. Forse per questo, per tutto l'Ottocento, nessuno ci pensa proprio, fino a che non arriva il testamento di Alfred Nobel, che nel 1901 porta alla prima edizione del premio più famoso del mondo. La storia è arcinota. Nobel, un industriale svedese, si è arricchito enormemente con l'invenzione della dinamite. Quando muore, lascia una gigantesca eredità con la quale fondare il premio. Prevede 4 riconoscimenti: medicina, chimica, fisica e, appunto, letteratura. A questi si aggiunge quello per la pace, assegnato però a Oslo. Povero Alfred Nobel. Quando si inventa il premio che porta il suo nome, non si immagina certo di scatenare un vaso di Pandora di vanità che accompagnerà da allora in poi l'intera vita letteraria del secolo successivo. Qualcosa che fa affermare a George Bernard Shaw, peraltro vincitore nel 1925, che può perdonare ad Alfred Nobel l'invenzione della dinamite, ma soltanto un diavolo travestito da uomo avrebbe potuto inventare il premio Nobel. Sarebbe prevedibile, in realtà. Ogni anno, per un premiato, ci sono decine di scrittori bravissimi e vanitosissimi che restano a bocca asciutta. E se qualcuno si rifà negli anni successivi, altri non ce la faranno mai. Così, alla fine, la lista di chi non ha mai vinto finisce con l'essere più lunga e prestigiosa di quella dei premiati. Si comincia già male nella prima edizione, quando un oscuro letterato francese, Sully Prudhomme, viene preferito a Émile Zola, che morirà l'anno successivo, non per il dolore della mancata assegnazione, si spera, ma anche a Lev Tolstoi, che non vincerà mai. Come loro, non entrano nell'albo dei vincitori Marcel Proust o Graham Greene, James Joyce o Jorge Luis Borges. Temo, insomma, che George Bernard Shaw avesse proprio ragione. Il Nobel ha una bella responsabilità nell'aver portato a galla tutto il peggio che cova negli animi degli scrittori e di chi ruota attorno ai libri. E non ci si ferma qui. Una conseguenza deteriore è stata quella di suscitare un grande desiderio di emulazione in tutto il mondo. sicché il Novecento può essere considerato il secolo dei premi. Quelle che avete ascoltato erano alcune pagine dal saggio di Andrea Kerbacher, Breve storia del libro, A modo mio. Ponte alle Grazie, 271 pagine, 16,80 €. Non aver paura dei libri era la frase che la mamma di Christian Mascheroni, scrittore e autore televisivo, gli ripeteva quando era bambino. E non avere paura dei libri è anche il titolo del libro che ora Christian dedica alla sua grande passione e a chi gliel'ha trasmessa, Eva e Gino, i suoi genitori. Nel capitolo in cui racconta della malattia di suo padre, Christian scrive: «I libri mi avevano preparato a tutto, tranne agli addii». Per giorni pensai che mi avessero mentito, che mi avessero ingannato su cosa si prova quando qualcuno viene a mancare. Ero pronto a stracciare ogni pagina che mi avesse nascosto la verità. Ero pronto a bruciare quelle parole, così maledettamente orchestrate, che certi scrittori mi avevano propinato per anni. Eppure, ancora una volta, furono i libri a tenermi per mano quando a dicembre capii che non stavo solo perdendo il segno, ma che era il momento di ricominciare a leggere la vita da capo. Quando mio padre fu ricoverato in ospedale per febbre alta alla fine dell'estate, io e mia madre ci ritrovammo una sera a leggere fino a tarda notte, dopo aver provato inutilmente a parlare. Non era mai accaduto di vedere Gino, il nostro eroe, che fino ad allora aveva sconfitto lingue di fuoco e salvato vite con il coraggio di un cuor di leone, sdraiato in un letto che non fosse quello di casa, con gli occhi del colore di una pagina ingiallita. Gli avevamo portato dei giornali e un libro, Un mese con Montalbano di Camilleri, che mio padre aveva cominciato a leggere prima che io partissi per il mare. Ricordo che era fiero di sé, perché si interrogava sempre sui propri limiti di lettore, chiedendosi se sarebbe stato capace di cogliere la bellezza dei libri scritti per persone più colte di lui. Ma era pura modestia la sua, perché Gino amava le storie ben raccontate e non si fermava di fronte all'incomprensione. D'altro canto, non aveva forse sposato una austriaca senza aver mai imparato il tedesco? Fu quindi contento di poter riprendere la lettura di Camilleri, che mi confessò essere una prova di quelle piacevoli per sfrondare la sua ignoranza. Quella sera stessa, con il pensiero di papà in ospedale, Eva e io ingannammo il tempo guardando un paio di film e tuffandoci poi nelle letture. Io stavo finendo Le fantastiche avventure di Cavalier e Clay, del premio Pulitzer Michael Chabon, e contemporaneamente Narciso e Bocca d'Oro di S. Accadde tutto velocemente. Io avevo accettato di lavorare per una trasmissione televisiva, il che mi costringeva ad alzarmi ogni giorno alle 5 del mattino. Avevo bisogno di impegnare la testa, ma era anche una necessità economica impellente, poiché mia madre non lavorava e mio padre era in pensione. Quando accettai il lavoro, erano passate quasi 3 settimane dal suo ricovero. Erano giorni in cui Gino stringeva nella mano un rosario, anche se non pregava da tempo, in cerca di altre risposte. Non gli bastavano quelle dell'affabile dottoressa che era stata schietta ma anche presente quando una grande goccia d'inchiostro fu assorbita dal fegato di mio padre. Nel giro di un mese, parlando con lei, fu chiaro che non c'erano più speranze di virgole, parentesi o puntini di sospensione. Il meraviglioso, unico e straordinario libro di mio padre era giunto al capitolo finale ed entro Natale la sua vita avrebbe lasciato il posto a un punto. Io lavorai al programma finché non compresi che era venuto il momento di smettere di essere un uomo e di tornare a essere un figlio in tutta la sua fragile presenza. Non avevo più tempo per i libri, ma loro c'erano, ovunque, nella nostra casa sempre avvolta dal buio, perché la luce dava fastidio agli occhi febbrili di papà. Mia madre gli sistemava il cuscino e gli passava la mano sui capelli. Ero contento di vedere in lei la moglie e non la madre. Avevano bisogno di stare insieme. Nelle tenebre c'era sempre il luccichio dell'anello d'oro e d'argento che avevo regalato a mia madre per il suo ultimo compleanno. Fu uno degli ultimi giorni in cui mio padre riusciva a rimanere sveglio. Anche quel giorno rimasi a casa. Guardammo in onda il programma televisivo al quale lavoravo. Alla fine della puntata scorsero i titoli di coda. Lui riuscì a leggere il mio nome. Scorrevano in fretta, eppure era riuscito a scorgerlo. Sorrise. indicò lo schermo. Io non lessi nulla. Circa 2 settimane dopo, l'alba fu anticipata dalla voce di Eva. Mi chiamò con il mio nome, per intero, senza soprannomi o diminutivi, il nome con cui lei e mio papà mi avevano battezzato e dato la vita. La raggiunsi e vidi i suoi occhi stanchi ma limpidi, la sua mano intrecciata a quella di Gino. Mi avvicinai, lo accarezzai e dissi «Ciao, papà». Lo dissi una seconda volta, ma in una lettera, che infilai nel taschino del vestito bello con cui Gino si sarebbe presentato alle porte del cielo. O così mi piaceva pensare. Avrebbe bussato, lo avrebbero accolto e lui di sicuro avrebbe aperto la lettera e l'avrebbe letta a tutti i presenti, con malcelato orgoglio. Mio figlio, il figlio del Mascherun, come dicevano quelli del nostro paese. Poi mi avrebbe indicato un punto lontanissimo laggiù sulla terra, ma pur sempre il suo punto esclamativo. Quelle che avete ascoltato erano alcune pagine dal libro di Christian Mascheroni Non avere paura dei libri. H edizioni, 256 pagine, 14 euro. Dopo il caffè sospeso, l'antica usanza napoletana di lasciare un caffè pagato per chi non se lo può permettere, e dopo il recente esperimento del pane sospeso, dalla Norvegia arriva la casa sospesa, per offrire ai poveri la possibilità di una vacanza. Estate, tempo di vacanze. C'è chi però in questi anni di crisi le ferie proprio non può permettersele. Anzi, addirittura diventa difficile trovare un tetto stabile sotto il quale dormire. Perfino nella ricca Norvegia. Ed è proprio nel paese dei fiordi che sempre più famiglie hanno iniziato a sperimentare una nuova e originale forma di solidarietà. Mettere a disposizione la propria abitazione ai più poveri, mentre si godono qualche settimana di relax al mare o in montagna. Un post su Facebook per lanciare la propria iniziativa e nel giro di una settimana oltre 25.000 condivisioni sul social network di famiglie indigenti che chiedevano ospitalità. Dopo una lunga e attenta selezione, la OSBO, qualche giorno fa, ha scelto la famiglia che potrà stare da lei per un mese e che potrà usufruire gratuitamente, oltre che della bellissima casa in legno, anche della sua BMW, di buoni pasto per fare la spesa, di un pacchetto di lezioni per fare surf e di un ingresso allo zoo della città. Unici requisiti? Essere una famiglia credente, dimostrare di versare in difficoltà economiche, niente fumatori e animali domestici al seguito. È stato davvero difficile dover scegliere una sola famiglia tra le tante che mi hanno inviato la loro storia. Purtroppo posso aiutarne una sola, ha dichiarato la OSBO, ospite di God Morgen Norge, programma di punta del mattino della televisione nazionale. Con il suo annuncio la OSBO sperava di diventare un esempio per tante altre persone e, in effetti, l'operazione sembra aver fatto centro nel cuore dei norvegesi. In pochi giorni, infatti, altre due famiglie hanno deciso di fare la stessa cosa. Glenn e Trine, una coppia che vive a sud di Oslo, hanno deciso di mettere a disposizione la loro baita in Svezia e perfino Ellen Karin Möen, membro del Partito Conservatore, ha fatto lo stesso con la propria casa di Sadness, aperta a chi è meno fortunato per l'intero mese di luglio. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gianluca Modolo, Quelli che lasciano la loro casa ai poveri per una vacanza, dal venerdì di Repubblica del 4 luglio.